Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse, partiamo dalle borse. Si è temuto oggi che dopo 4 giorni di rialzo le borse potessero iniziare a perdere nuovamente. Non è così, nel senso che proprio in finale di seduta adesso Milano perde lo 0,20%, è arrivata a perdere più di un punto percentuale, Parigi perde mezzo punto, Francoforte più 0,13%, Londra invariata. E quindi per ora la situazione è, diciamo così, neutra. Tant'è che Unicredit continua a guadagnare tantissimo, il 6,22% a 1,25 euro, scusate, e a questo punto porta il suo rialzo dal 22 di novembre al 48%. UbiBanca più 4,40%, Banco Popolare più 3,20%, Fiat Industrial più 2,14%, Buzzi Unicem più 1,90%, Monte dei Paschi più 1,80%. Come sentite, chiaramente di nuovo gli acquisti sono sulle banche, di nuovo il mercato compra titoli bancari perché è convinto, e devo dire non a torto, che tanto il salvataggio delle banche europee si farà, ormai lo dicono da più parti, tra i 100 e i 200 miliardi, 150 miliardi di euro serviranno per ricapitalizzare, come si dice in maniera più neutra e indolore, in realtà per salvare le banche, alcune grandi banche europee. Il punto però resta, sono 150 miliardi o 100 miliardi, 200 miliardi che i governi europei dovranno mettere nelle banche e che non utilizzeranno né per ridurre i loro debiti eventuali e deficit, né per politiche di sviluppo o politiche di welfare, cioè per politiche che vadano a mantenere i consumi o addirittura a far crescere l'economia. Questo lo dico perché io capisco l'ottimismo e l'euforia della borsa. Capisco meno alcuni commenti entusiastici, la crisi alle spalle. Attenzione, bisognerà scucire 150, diciamo, prendiamo la via mediana, 150 miliardi di euro per salvare le banche. Tant'è che c'è chi si chiede, ma allora a questo punto se dobbiamo tornare a salvare le banche dopo quello che è successo nel 2008-2009, perché i governi non entrano stabilmente nell'azionariato delle banche stesse, quelle da salvare? Anche perché sennò tu gli presti i soldi, poi te li ridanno, ma nel frattempo tu non riesci ad avere soldi a disposizione per, chiamiamole così, politiche di sviluppo o di mantenimento dei consumi, così si capisce di più. Questo è il tema che affronteremo dopo i mercati, perché è un tema delicatissimo, sia nell'ipotesi che i governi a questo punto decidono di mettere dei loro uomini dentro i consigli di amministrazione, sia comunque perché 150 miliardi sono praticamente una decina, un po' di meno, 8 manovre finanziarie dell'Italia all'anno, quindi si capisce l'ammontare. Questo il tema di borsa. Devo dire che vanno bene anche Prismian più 1,70%, Exor più 1,40%, Diasorin più 1,30%. Chi è negativo oggi? ST Microelectronics meno 3,90%, la Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,80%, Fondiere Sai meno 3%, Atlantia meno 2,80%, Telecom meno 2,60%, Generali meno 2,40%, Enel meno 2,1%, Impregilo meno 2%, Saipem meno 1,80%, TOZ meno 1,70% come Mediolanum, Enel meno 1,60% come Azimut, e la Popolare Milano perde l'1% come Terna. In apertura la manovra, ma soprattutto il monito della Corte dei Conti che dice attenzione, la riforma fiscale, la delega fiscale, quella che prevederebbe, da quello che si è capito, 3 aliquote IRPEF al 20, al 30, al 40%, cioè la riforma fiscale annunciata dal governo, promessa da Tremonti, che punta appunto a 3 aliquote, a ridefinire la base imponibile, non ha copertura, non è coperta, occorre tassare i beni reali e attenzione perché, come chiariremo, se entro il 2012 non arriva la delega per questa riforma, cioè non arriva il disegno di legge delega che istituisce e rende operativa questa riforma, nella legge finanziaria è già previsto che in assenza della riforma verranno fatti tagli lineari da 20 miliardi di euro, o meglio 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi a regime nel 2014. Questo vorrà dire che se entro il 2012 non viene fatta la riforma fiscale, ci sarà un taglio ulteriore e che porterà la pressione fiscale dall'attuale 44,1% del PIL al 44,8, cioè un punto percentuale poi a regime rispetto adesso, siamo al 43,8, si arriverà al 44,8%. Questo è l'altro tema del programma. E poi Steve Jobs. Ieri qualcuno ci ha criticato, ma insomma, perché abbiamo con il professor Alessandro Penati raccontato, scherzando anche, visto che impazzava sulla rete, su internet, se Steve Jobs fosse nato a Napoli, si fosse chiamato Stefano Lavori, che vita avrebbe avuto? E molti hanno detto, ma insomma non è vero, abbiamo ricordato che fare impresa in questo paese è anche più eroico che farlo negli Stati Uniti, visti tutti gli impedimenti che tu hai. E oggi vorremmo raccontare la storia di un imprenditore che ha 26 anni, fattura 1 milione di euro, ha chiesto un finanziamento da 40.000 euro, se non ricordo male, in banca, ha l'età in cui Jobs quotò Apple in borsa e si è sentito dire che aveva bisogno delle garanzie dei genitori e con dei tassi che lui definisce, insomma, banditeschi. Questo per far capire, nel nord-est, non a Napoli, nel nord-est, per cui insomma, vediamo poi di calarci anche nella realtà al di là degli ideologismi. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve. E complimenti all'ascoltatore che ha comprato un iCredit a 0,64%. Sta guadagnando quasi il 60%, bisogna avere fegato per farlo quando tutto va giù, oppure direbbe Giovanardi, bisogna essere drogati. Anche qui vedo molti messaggi al 349-238-6666, ripeto la nostra posizione, è vero, ci sono studi a Wall Street sull'effetto che hanno le sostanze stupefacenti, nel caso specifico anfetamina e cocaina, nei confronti di chi gestisce il rischio come i trader, e quindi abbassa la soglia del rischio, dà un senso di onnipotenza. Il problema è che dire che bisogna, come ha detto Giovanardi ieri, faremo i controlli ai trader, e dove li vai a trovare questi trader? E qualcuno dovrebbe spiegare al ministro che a Piazza Affari non ci sono più le grida, non c'è più la sala delle grida dove si compra e si vende. I trader stanno nelle SIM, nelle banche, e non è che stiano tutti in Italia, perché tu puoi operare per un fondo italiano con un trader che sta a Hong Kong o che sta nel Connecticut o che sta a Singapore. Allora cosa fai? Mandi la polizia a Singapore, gli levi il capello, controlli il capello e poi? Allora, il petrolio come va? Il petrolio continua a stare stabilmente a $84,4, l'oro a $1,684. Migliaia di manifestanti invece si sono radunati a Chicago. Dopo New York, gli indignados vanno anche a Chicago. Il movimento si chiama Alzati Chicago e reclama la restituzione dei posti di lavoro, delle case, delle scuole, e sono tutte iniziative ispirate, anche se non formalmente collegate, con il movimento Occupy Wall Street, sorto a New York il mese scorso. 27 persone arrestate. E ancora la protesta nel frattempo a New York è arrivata sotto la casa dei ricchi di Wall Street. Ora, è brutto dire, l'avevamo detto, però è 2 anni che insistiamo a raccontare come i manager di Wall Street si siano rimessi a fare esattamente quello che facevano prima, anche a ridistribuirsi bonus più alti delle volte di quelli che non si distribuissero non venivano distribuiti nel 2007-2008. E mentre gli americani toccavano record nella disoccupazione, è nelle cose. Allora, la protesta si chiama Millionaire's March, punta verso Manhattan, dove abitano Rupert Murdoch, Howard Milstein, David Koch, James Diamondell, John Paulson, insomma tutti i grandi guru e gestori degli hedge fund americani, o miliardari, oppure i magnati del mercato immobiliare. E una delle rivendicazioni degli attivisti è l'estensione della tassa sui ricchi, già in vigore nello stato di New York, a tutti i ricchi americani. Ah, ha ragione l'ascoltatore che dice: ma perché nessuno va avanti con la riforma che punta a separare le banche d'affari con la banca commerciale, cioè la banca che fa investimenti, che si prende i rischi, con la banca che raccoglie il risparmio dei privati? Saperlo. Nel senso che Obama non ha avuto la forza di farlo. In Europa mi sembra che siamo ancora molto molto indietro, ma il problema più grosso ce l'ha l'America, perché prima Clinton e poi Bush hanno levato la separazione tra banca d'affari e banca commerciale, poi Bush ha levato anche il controllo delle banche e degli strumenti derivati dalla Consob americana, scusatemi, dalla Federal Reserve, lo ha portato alla SEC, quindi senza che la banca centrale americana potesse più controllare qual era la capitalizzazione di queste banche, cioè quanta riserva avevano per fare operazioni così spregiudicate. La lobby di Wall Street è, mettiamola così, è potente quanto la lobby degli avvocati in Parlamento a Roma. Ancora il monito di Trichet: non diamo il gufo a Trichet, perché il gufo è scaramantico. In questo caso Trichet, che è il presidente della Banca Centrale Europea uscente, ha detto una cosa che a mio avviso non ha nulla da menagramo, ma è pura realtà. Ha detto: la situazione è peggiorata, la crisi che ora è sistemica nelle ultime 3 settimane è peggiorata, le istituzioni devono agire rapidamente senza ulteriori ritardi che altrimenti aggraveranno la situazione. Sono aumentati, ha continuato il numero uno della Banca Centrale Europea, i rischi di liquidità e di finanziamento delle banche, e il Fondo di Salvataggio Europeo, l'IFSF, può intervenire e può essere utile per ricapitalizzare gli istituti. Attendiamo tra l'altro il voto della Slovacchia. La Slovacchia è l'unico paese che manca e che non ha votato ancora, dopo l'ok di Malta, al via libera al Fondo di Salvataggio Europeo. La Troica, lo ricordavano anche i nostri GR, in un comunicato diffuso ad Atene, quindi Fondo Monetario, Banca Centrale Unione Europea, ha detto: vabbè, il via libera c'è sostanzialmente per i nuovi aiuti alla Grecia, gli 8 miliardi. Ci sono gli 8 miliardi per la Grecia, però serve un finanziamento anche del settore privato. Allora, c'è chi scrive: lei è sempre dalla parte delle banche. Io dalla parte delle banche, chissà su che frequenza ci ascolta. Comunque andiamo avanti. La Merkel dice: in Unione Europea c'è la volontà politica per superare la crisi, e vabbè, questo è un po' pragmatica. E invece il nostro ministro Frattini torna sull'asse Berlino-Parigi, l'asse franco-tedesco. No agli assi, le divisioni danneggiano l'Europa. Io credo che non ci dovrebbero proprio essere assi, né franco-tedeschi, né franco-tedeschi italiani, né altro, ma che l'Europa debba lavorare insieme. Ogni paese deve prendersi la sua quota di responsabilità e poi tutti lavorare per il bene comune. E però c'è una nuova grana per il ministro Frattini. No, sorrido perché un ascoltatore ha scritto: tanta euforia in borsa, ma l'Europa sta andando a troiche. Sì, è la troica quella che sta salvando la Grecia. Dicevo, una nuova grana per il nostro ministro. Perché? Perché il Wall Street Journal oggi avanza, il quotidiano finanziario americano, uno assieme al Financial Times, i due quotidiani più importanti al mondo nella finanza, dicevo, avanza pesantissime insinuazioni sul nostro paese e sulle nostre finanze pubbliche. E dice infatti il Wall Street Journal: i mercati stanno probabilmente sottovalutando il livello di difficoltà con cui l'economia italiana dovrà confrontarsi, e stanno sottovalutando il fatto che l'attuale stato dei conti pubblici italiani è peggiore di quanto riferito. E qui c'è un parallelo molto fastidioso. Io spero che il Wall Street Journal abbia qualche elemento concreto, se no è veramente un pregiudizio anti-italiano, lo dico senza nessun problema. Perché il Wall Street Journal ci accomuna la Grecia. Sapete che la Grecia, tutti i casini greci iniziano quando la Grecia trucca i conti per entrare nell'euro. Ecco, il Wall Street Journal dice la stessa cosa dell'Italia. ci sono validi motivi per ritenere che anche il governo italiano sia stato altrettanto aggressivo, cioè come la Grecia, nel mascherare lo stato delle sue finanze pubbliche quando doveva entrare nell'euro. Insomma, io spero veramente che il Wall Street Journal abbia elementi per dirlo. Vabbè, è un articolo in cui si partiva dalla battuta del presidente del Consiglio Berlusconi sul partito Forza Gnocca, in cui Wall Street Journal diceva Berlusconi ha suggerito qualcosa di osceno, non citando la battuta, e ha mostrato in questo modo perché gli investitori internazionali fanno bene a spaventarsi sull'Italia. Però dico, al di là del commento del Wall Street Journal su Berlusconi, è libero di fare quello che vuole, Wall Street Journal, spero che abbia gli elementi per dirlo. La buona notizia di oggi, il calo nei rendimenti delle nostre obbligazioni vuol dire che ci costa meno trovare finanziatori per il nostro debito. A un anno il bot è calato al 3,57%, pensate che a settembre era al 4,15%, e quindi finalmente dopo mesi e mesi di tensioni sul nostro debito abbiamo la prima emissione di obbligazione, cioè finanziamento del debito, con un calo dei rendimenti. E invece altre dichiarazioni arrivano sul fronte della politica interna. Vedo che molti scrivono altri imprenditori che hanno dovuto chiedere la firma di mamma e papà pensionati per il nuovo mutuo dopo 25 anni da clienti come banca. Sì, qui il caso è un po' diverso, ne parliamo alle 18 e 15. No, dicevo, il famoso disegno di decreto sullo sviluppo, quello che dovrebbe rilanciare l'economia italiana, quello chiesto con forza da Confindustria, nella speranza che sia qualcosa di concreto e non promesse. E allora, il sottosegretario all'economia Alberto Giorgetti, che è della Lega, quindi ha rapporti anche con il ministro Tremonti, diciamo, intensi, che cosa ha detto oggi? Ha detto, il governo sta ancora valutando, io ricordo che il decreto sviluppo doveva arrivare la settimana scorsa, adesso è rinviato a ottobre, al 20 se non ricordo male, ha detto Giorgetti, sottosegretario all'economia, il governo sta ancora valutando se ci sono risorse, io direi se ci siano, comunque se ci sono risorse da destinare al decreto sulla crescita, oppure se si deve puntare ad un provvedimento a costo zero. Andiamo bene, proprio bene. Eh sì, costo zero non si fa nulla. La prima regola dell'economia è che non ci sono pasti gratis in economia, per cui se non ci sono i soldi farebbe bene a dirlo subito. Il ministro Sacconi però precisa, la crescita non si fa per decreto. Il decreto sviluppo sarà esaminato quando sarà pronto, e quindi ora non è il caso di fare alcuna considerazione su contenuti che verranno giudicati alla fine. Quello che conta è mettere in movimento la capacità della società. Lo sviluppo non si fa per decreto. Un decreto può concorrere allo sviluppo stesso, può soprattutto liberare risorse, e la deregolazione è un contenuto da non sottovalutare, direi il contenuto fondamentale per liberare la capacità della nostra società, delle nostre imprese, del nostro lavoro di generare ricchezza. Ora chiariamoci, il ministro Sacconi ha ragione nel dire che la crescita di nessun paese, non solo dell'Italia, non si fa con un decreto né con una legge. La crescita si fa con iniziativa privata e con chi vuole rischiare, con le banche che aiutano l'iniziativa privata. Però ha anche ragione nel dire che il governo quello che può fare è levare lacci e lacciole, cioè rendere più facile l'ambiente, rendere più favorevole l'ambiente economico in cui far crescere poi e far sviluppare la ripresa, quindi burocrazia, lungaggini, investimenti, leggi anche in contrasto. Ed è proprio perché ha ragione il ministro Sacconi che vorrei sapere, lo dico senza polemica, perché in 3 anni non è stata fatta dal governo una legge che andasse in quella direzione, cioè liberalizzare, mettere in concorrenza, levare i lacciuoli burocratici. Non è possibile metterci degli anni per aprire un'impresa, o per aprire un sito produttivo in questo paese? Vabbè, la buona notizia, un'altra buona notizia riguarda invece il gruppo Fincantieri. Giuseppe Bono oggi ha annunciato che l'azienda, cioè che la Fincantieri, Bono ne è l'amministratore delegato, non chiuderà lo stabilimento di Sestri Ponente. E adesso veniamo però in cauda veneno, ma alla fine c'è il veleno nella coda, all'allarme della Corte dei Conti di oggi. Dice la Corte dei Conti: attenzione, la riforma fiscale che il governo ha promesso entro il 2012 non è coperta, non ha copertura, cioè mancano i soldi per farla, anche perché parte delle entrate fiscali sono state usate dal decreto di agosto. Bisogna quindi tassare, leggo testualmente, tassare beni personali e reali, evitando i tagli lineari alle agevolazioni fiscali, quelli che scatteranno in automatico fra un anno se non si è fatta la riforma fiscale, perché lo prevede la finanziaria. E quindi evitare i tagli alle agevolazioni fiscali, tassare piuttosto i beni personali reali, che a casa mia si chiama patrimoniale. E poi aggiunge la Corte dei Conti: il taglio alla spesa sociale, non, quello prefigurato dal disegno di legge che deve fare la riforma fiscale, non è percorribile, perché finirebbe per colpire i ceti più deboli e avrebbe gli stessi effetti negativi per l'economia del paese di quelli derivanti da un prelievo fiscale eccessivo e distorto. E cioè, se andiamo a tagliare ancora il welfare, continuiamo a abbassare i consumi e il potere d'acquisto di chi già ne ha poco, senza eliminare il problema dell'evasione e, diciamo, dei redditi alti che continuano a sfuggire al fisco. E lì tagliare, tassare, dice la Corte dei Conti, i beni personali e reali. Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, spiegaci un po' questa cosa. La delega fiscale, cioè il disegno di riforma fiscale, è quello che dovrebbe portare a tre aliquote, giusto? Eh sì, esattamente. 20%, 30%, 40%. Con la ridefinizione della base imponibile, una progressiva eliminazione dell'IRAP che verrebbe compensata dalla compartecipazione degli enti locali ad altri gettiti e la possibilità di aumentare l'IVA. Ok, che cosa succede fra un anno se la riforma fiscale non è legge? E questo è il meccanismo che è stato inserito nella manovra, era già nella manovra di luglio e poi è stato anticipato con la manovra d'agosto al 2013 per raggiungere il pareggio di bilancio. È esattamente questo, la cosiddetta clausola di salvaguardia. Vale a dire, il ministro dell'economia Tremonti dice al Parlamento: il Parlamento approva la legge delega entro il settembre del 2012, se non lo fai, a quel punto io metto in moto un meccanismo di tagli automatici alle agevolazioni fiscali e assistenziali, le cosiddette tax expenditures e tutto il resto. Ad esempio, dentro ci potremmo trovare le detrazioni, le deduzioni, ma anche, che ne so, gli assegni di invalidità, per dirne una, e lo fa attraverso un taglio che dovrebbe portare nelle casse dello Stato maggiori introiti per 4 miliardi l'anno prossimo, 16 nel 2013, 20 miliardi la cifra finale nel 2014. Allora, qual è il problema? È che questa cifra dei 20 miliardi che il ministro Tremonti prenota, tra virgolette, nella finanziaria, è già nella manovra, è parte integrante della maxi manovra che è arrivata alla fine a 59 miliardi a regime. Ecco perché la Corte dei Conti dice che la delega non è coperta, perché quei fondi sono già stati utilizzati per la manovra economica. Allora, di fatto, la legge delega a questo punto è uno scheletro che non ha più copertura. Allora, io ho l'ingrato compito di tradurre in maniera proprio volgare. Tu mi stai dicendo che la Corte dei Conti ha detto: attento Tremonti, i soldi che tu dici che dovranno servire eventualmente se non va in porto la riforma fiscale, perché Tremonti si è cautelato, no? Ha detto il piano B, se il Parlamento non riesce a approvare la riforma fiscale, io comunque faccio scattare in automatico, diciamo, dal settembre dell'anno prossimo, 4 miliardi nel 2012, 16 nel 2013 e 20 miliardi di tagli trasversali, in modo che metto a riparo i conti pubblici. Però la Corte dei Conti ha detto: attenzione, che questi soldi tu li hai già usati, ho capito bene? Esatto. Per cui la copertura non ce l'hai in ogni caso. La conseguenza qual è? Scusami, perché a questo punto cioè, il gioco delle tre carte è bello, perché uno le muove così velocemente che, che l'altro resta basito. Prego. La conseguenza è che bisogna trovare un'altra copertura, perché quella che era inizialmente prevista nel disegno di legge delega è già stata in qualche modo prenotata dalla manovra economica. Allora, un'altra copertura, per la verità, se uno si va a leggere bene il disegno di legge delega, là ci sono già delle indicazioni, perché si parla ad esempio di aumento dell'imposizione indiretta. Allora si potrà dire, ma l'IVA l'hanno già aumentata. Non è vero, perché l'IVA l'hanno aumentata dal 20 al 21%, ma ci sono altre due aliquote. Ad esempio, sto parlando in linea puramente teorica, si parla lì di finanziare la riforma fiscale attraverso l'armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie. Anche questa, altra misura già fatta nella manovra. E quindi quel gettito lì va sostituito. Ecco perché la Corte dei Conti dice: abbandonate questo capitolo, perché tanto certamente la legge delega, con l'aria politica che tira, ben difficilmente verrà approvata, e comunque laddove venisse approvata occorre trovare un'altra copertura, da cui la patrimoniale. Qual è il problema però che forse dovremmo sollecitare all'attenzione del Presidente Giampaolino? È che 20 miliardi di patrimoniale mi sembra una cifra pazzesca, cioè non credo che una patrimoniale possa arrivare a una cifra del genere. Dove cavolo li vai a trovare? Cioè 20 miliardi sono una manovra finanziaria, sui patrimoni adesso obiettivamente, oddio, un bel contrasto all'evasione fiscale portò a Visco e a Padoa-Schioppa 10 miliardi di tesoretto solo per la paura degli evasori, l'effetto Visco. Però 20 miliardi di patrimoniale, non so, non è che li puoi fare con le barche, così torno a discutere con Albertoni come ho fatto ieri, non è ipotizzato. O con le seconde case o con le automobili di extra lusso, cioè 20 miliardi, sono 40 mila miliardi di vecchie lire quasi, cavolo li vai a trovare. Ma scusami, tutto questo però, che punto di caduta ha? La risposta la vorrei dopo il meteo, perché se tu mi dici, cioè dice la Corte dei Conti, che i soldi per l'eventuale piano B il governo li ha già spesi, cioè li ha già messi per altre voci, li ha già utilizzati per altre voci, che la patrimoniale da 20 miliardi, sono d'accordo con te, non si regge, e che comunque non vi sono altre strade, l'unica strada possibile è che si arrivi entro settembre alla riforma fiscale vera e propria, oppure ce ne sono altre? La risposta dopo il meteo. Qualcuno mi chiede se mi piacciono le olive greche, non eccessivamente, le lascerei ai greci. Meteo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giustamente un ascoltatore suggerisce: sono meglio le olive ascolane a quelle greche. Ecco, teniamoci quelle ascolane, lasciamo stare la Grecia. Altri però, Dino Peso, le sottolineano che 20 miliardi di patrimoniale, come senza andare troppo per il sottile, suggerisce oggi la Corte dei Conti, sarebbero 350 euro di media per cittadino. Sì, ho capito, ma bambini inclusi. Per cui attenzione, un patrimoniale da 20 miliardi obiettivamente non si può sentire neanche come ipotesi. Una notizia in diretta, però la maggioranza è stata bocciata alla Camera sull'articolo 1 del rendiconto di bilancio, è finita con 290 pari e alla Camera appunto serve la maggioranza vera, cioè 291 voti. Dino? Mi sembra una decisione abbastanza clamorosa, perché stiamo parlando del disegno di legge di assestamento di bilancio, che anche per i non addetti ai lavori però è un atto molto importante, tanto per dirne una: senza assestamento di bilancio non si può fare la finanziaria o legge di stabilità che si chiami, perché è quel documento che a metà dell'anno, come dire, fa il punto sulle entrate e le spese dello Stato alla luce di quello che è accaduto nel primo semestre. E dunque è evidente che questa è una bocciatura di tipo prevalentemente politico. Mi sembra di capire che sia un ennesimo segnale, siluro vogliamo chiamarlo, nei confronti del Ministro dell'Economia. Di tensioni interne, sì, alla maggioranza. Ecco, dal punto di vista tecnico credo che ci sia qualche escamotage, nel senso che ora, bocciato l'articolo 1, probabilmente ci sarà una conferenza di capigruppo e decideranno di rinviarlo di nuovo all'esame in commissione, magari modificandolo. Però insomma il segnale politico è abbastanza inquietante, perché alla vigilia dell'approvazione della legge di stabilità, quando si sta ragionando su come fare questo famoso decreto sullo sviluppo, allora una decisione del genere prefigura scenari. Ma oggi Giorgetti ha detto che se non ci dovessero essere risorse sarà un decreto sviluppo a costo zero. E a costo zero è difficile fare tante cose nella vita, certo. Vabbè, comunque insomma la soluzione, perché la Corte dei Conti dice allora la riforma fiscale o la fai oppure in automatico quello che tu, la clausola di salvaguardia, cioè tagliare i trasferimenti in automatico per 20 miliardi l'hai già messo in bilancio, quindi quello lì non lo puoi più utilizzare. Suggerisce la patrimoniale, tu dici però insomma 20 miliardi di patrimoniale, 4 nel 2013, 16 nel 2013, 20 a regime, sono una cifra difficilmente sostenibile o realistica soprattutto. E allora? Beh, intanto bisognerebbe chiedere al governo una cosa che ancora non è chiara: ma quanto costa questa riforma fiscale? Non lo sa nessuno, perché non è sufficiente dire che si riduirà il prelievo dell'IRPEF attraverso l'aliquota del 20, 30 e 40% se non si indicano contemporaneamente gli scaglioni e non si dice ad esempio sulla base di quali detrazioni si opererà la modifica delle aliquote dell'IRPEF. Quindi se questa è una cosa decisiva. Allora, prima cosa bisognerebbe capire quanto costa a bocce ferme. Una volta stabilito quanto costa, poiché quella forma di finanziamento non c'è più, perché è già stata prenotata dalla finanziaria, bisogna inventarsene un'altra. Ad esempio, si potrebbe anche immaginare che a consuntivo i proventi della lotta all'evasione, quest'anno si parla di 11 miliardi, vengono totalmente dirottati al sostegno della riforma fiscale. Però, come si sa, quella è una forma di copertura un po' ballerina, perché è difficile. Però scusami, una cosa non ho capito e poi ti lascio, ma la clausola di salvaguardia prevede che se tu non riesci a fare la riforma fiscale l'anno prossimo scattano in automatico questi tagli, e questo l'abbiamo chiarito tre volte. Sì. E la Corte dei Conti dice questi tagli però, questi soldi tu li hai già messi in bilancio. Io ricordo che c'era un tuo articolo domenica su questo, Dino Pesole. Se scattassero questi tagli, la pressione fiscale complessiva salirebbe dal 43,8 al 48,8 nel 2014, c'è un punto in più. Ma questo vuol dire che di fatto già salirà così? Cioè, se già li hanno messi in bilancio, già avremo una pressione fiscale di un punto percentuale più alta? Allora, è molto probabile che sia così, perché lo stesso governo nella nota di aggiornamento al DEF, al documento di economia e finanza, li ha iscritti, ma sotto la cifra della pressione fiscale, come dire, sono pronti là e nel momento in cui questi soldi effettivamente entreranno andranno ad aumentare la pressione fiscale. Qual è il problema però? Che anche se non scattasse la clausola di salvaguardia, nell'ipotesi che il Parlamento approvasse questa famosa legge delega, comunque ci sarebbe un aumento della pressione fiscale, perché il dispositivo della delega prevede in ogni caso un incremento della tassazione, perché quando mi si dice che faranno fronte attraverso l'aumento dell'imposizione indiretta, ad esempio, quello è un aumento della pressione fiscale. Se vogliamo anche il recupero di gettito dall'evasione è aumento della pressione fiscale. Quindi comunque io penso che quel 44,8 sia la cifra a cui finiremo. Ed è obiettivamente una cifra enorme, perché siamo quasi al 45% di pressione fiscale, che poi, come sappiamo, non fotografa nemmeno del tutto il peso reale del fisco sull'economia, perché è molto più alto in ragione di tutti gli altri meccanismi che poi scattano. Ad esempio sulle imprese la tassazione è decisamente superiore al 50%. Quindi qua si tratta di prendere una decisione politica, e cioè si abbia il coraggio di dire la legge delega non si può fare, se ne parla la prossima legislatura, tutto quello che si potrà recuperare lo utilizziamo in parte per ridurre il deficit, in parte per il decreto sviluppo. Fino a che c'è in piedi questo disegno di legge delega, secondo me si perpetua un equivoco che alla fine però dovrà essere in qualche modo risolto. E io pago! E io pago! Chiarissimo, Dino Pesole, anch'io sono dell'idea che a questo punto, se non ci sono i margini, i soldi per fare la riforma fiscale, meglio dirlo subito e non andare a traccheggiare, boccheggiando fino alla fine e poi dire non ci sono i soldi. Diciamolo subito e se ne riparla nel prossimo governo, se mancano i soldi, però bisogna chiarire a questo punto da dove arrivano i 20 miliardi, visto che la Corte dei Conti oggi ci ha spiegato che li ha già messi a bilancio il governo. Adesso ringrazio Dino Peso, adesso le 24 ore, il traffico, poi la borsa che ha chiuso con un meno 0,40%, quindi tiene anche oggi il mercato. Parigi meno 0,25%, Francoforte più 0,30%, Londra meno 0,33%. 349-238-6666 è il numero come sempre per i vostri sms. Allora, la borsa è in rialzo in alcuni paesi, mi riferisco a Francoforte più 0,30, tiene tutto sommato a Milano meno 0,39, a Parigi meno 0,25%. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Di nuovo Unicredit che ha recuperato dai minimi, siamo al 60% da novembre, e buonanotte, dal 22 settembre siamo a un più 48,50%, più 6,74% oggi sopra l'euro per azione, 1,03€. Sì, era arrivato a guadagnare anche oggi quasi il 10%, tu citavi dei dati, è anche impressionante il fatto che dalla scorsa settimana il titolo abbia guadagnato il 25%. A cosa è legato questo rialzo, che poi è associato anche a dei volumi molto sostanziosi rispetto al capitale della banca? Sicuramente gli operatori segnalano il fatto che la stessa banca era decisamente sottovalutata anche in base al proprio attivo, infatti era arrivata addirittura a valere meno di 0,7 euro. Poi ci sono anche le speculazioni sul possibile aumento di capitale che potrebbe dare nuova solidità all'istituto, anche se poi con queste quotazioni potrebbe essere messa in discussione se non perlomeno l'ammontare dell'operazione. Poi ci sono state anche le rassicurazioni ieri di Nikas, il direttore generale della banca, sull'andamento del business nell'Europa dell'Est e in Turchia. Diverso l'andamento invece sia di Intesa San Paolo, che ha perso l'1,26%, ma soprattutto della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 4,13%. Sì, diciamo che nel caso della Banca Popolare dell'Emilia Romagna è un vero e proprio mistero. Ma veramente, diciamo, anche questo, perché ce lo chiedono molti ascoltatori che immagino essere azionisti della Pop Emilia Romagna. Sì, che da quando è entrata nel FTSE MIB, ed è insomma storia recente, di qualche settimana fa, ha perso qualcosa come il 23%. Però insomma, a sentire gli operatori non ci sono particolari motivi dietro questo ribasso, sicuramente magari nei prossimi giorni si potrà capire qualcosa di più. Per quanto riguarda Intesa San Paolo invece, il titolo comunque è cresciuto molto negli ultimi giorni, era sceso sotto 1 euro, oggi quota 1,33 euro, si è riportata comunque ai livelli dell'aumento di capitale. Ancora, per quello che riguarda Telecom Italia, meno 2,62%, Telecom e ST Microelectronics che ha perso oggi il 4%. Telecom era un altro titolo che aveva guadagnato molto, dal 12 settembre aveva recuperato il 21%, oggi sono arrivate due notizie non propriamente positive, il downgrade di Fitch e poi questo report di Goldman Sachs. Goldman Sachs è comunque un'istituzione importante in ambito finanziario, che ha consigliato ai propri clienti di vendere il titolo. Insomma, poi dei report degli analisti possiamo dare interpretazioni che vogliamo, però è stata un'indicazione molto forte che ha spinto il titolo a ribasso. Ecco, qui c'è anche un'indicazione, un allarme sul profitto, questo non è un'indicazione degli analisti compro o vendi, è un profit warning, cioè un allarme che gli utili potrebbero essere, un avvertimento che gli utili potrebbero essere inferiore alle attese. Su Fondiaria Assai invece, meno 3%. Sì, era arrivato nei giorni scorsi, era stato preceduto da un rialzo piuttosto anormale del titolo, che comunque dobbiamo dire che si mantiene su livelli accettabili se si pensa al profit warning che è stato dato, comunque meno 2,9%. Banco Popolare più 3,20, Ubibanca più 3,90, Fiat Industrial più 2,60, Diassori in più 1,5, Buzzi Unice in più 1,40, Prismian più 1,40, Fiat Auto più 1,15, Exor più 1%, Monte dei Paschi più 1%, Mediobanca più 0,80. Deboli oggi gli energetici, Eni meno 0,70, ma soprattutto Enel Green Power meno 2% e Saipem meno 2,17%, anche Snamrete Gas perde lo 0,90%. Enel Green Power e poi anche Enel ho visto meno 2,20 appunto. Sì, è stata una giornata diciamo deludente un po' per gli energetici un po' in tutta Europa. Poi Enel e nel Green Power insomma fanno un pochino più effetto perché si tratta di titoli tipicamente di cassettisti. Chiaro. Comunque nel Green Power resta sopra il valore di collocamento, questo considerato quello che hanno passato i mercati è assolutamente insomma da sottolineare. Grazie a Gio Condi, la Radio Cori sulle 24 ore. Il miglior titolo Archimedica più 15,38%, peggior titolo Meteorios Capital meno 5,31%. 1,5%. Stiamo andando e lasciando lo spazio al GR, però visto che è già in collegamento il professor Donato Masciandaro, editorialista anche del Sole 24 Ore, buonasera professore. Buonasera dottor Bresso. Una battuta e poi l'intervista dopo il GR. Lei è un grande esperto di banche, di mondo bancario, insegna economia della regolamentazione finanziaria alla Bocconi di Milano. Questa euforia della borsa dopo che si è scoperto che le banche europee andranno salvate con 100, 150, 200 miliardi di euro è giustificata? Cioè, è veramente una provocazione, sono io che non capisco, mi dica sì o no? Le dico che non la trovo giustificata, anche se ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti mi avete messo il gufo di sottofondo. Vabbè, adesso correrò adesso non è che il gufo è un deterrente, diciamo, non è una minaccia, eh. No, ma mi consenta di giocarci su, come lei certo ben ci gioca. Temo che sia un otto volante e siamo sempre su un piano inclinato. Oggi il mercato vede l'inclinazione meno forte, ma finché non si scioglie definitivamente il nodo che lega i bilanci bancari con i debiti pubblici a rischio, io temo che continueremo con questo otto volante. E allora ne parliamo dopo il GR e poi anche la storia di un imprenditore che ha chiesto con 1 milione di fatturato 40.000 euro di prestito da una banca del Nord-Est e gli hanno chiesto impegno di tutto, i genitori, la casa, i redditi futuri. Ne parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per gli sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora parliamo di banche, sia per l'euforia che si è creata in borsa per il salvataggio delle banche, che però anche qui torniamo da dove eravamo partiti, non esistono pasti gratis in economia e questi 100, 150, 200 miliardi di euro li dovranno tirare fuori gli stati, la banca centrale, e saranno soldi che non potranno essere utilizzati per ridurre i debiti o per politiche di rilancio e di welfare. E poi l'esperienza di un imprenditore del Nord-Est nel cercare un finanziamento molto modesto, devo dire, con una banca. Di due cose non ci occuperemo. Del governo che è andato sotto la Camera, abbiamo già detto in diretta, giustamente fa notare un ascoltatore che la Gelmini, l'avete appena sentita, il ministro Gelmini, nei nostri GR, ha detto che il governo è andato sotto perché Bossi si era assentato al momento del voto. L'ascoltatore fa notare che Bossi è senatore e non vota la Camera. Però lasciate stare la Gelmini, che tra il tunnel, tra il Gran Sasso e Ginevra dei Neutrini, i presidi e quant'altro, insomma non è un bel periodo per lei. Così come non ci occuperemo dell'Istat, lo ha fatto questa mattina Oscar Giannino, e del delirante in alcuni casi questionario su internet. Solo una battuta, ma come si fa nel paragrafo istruzione e formazione? C'è una domanda che sul titolo di studio, e se uno dice non, alla risposta non sai né leggere né scrivere, ti rimandano al paragrafo 5.1. Se non sai né leggere né scrivere, come fai ad andare? Io non lo so, kafkiana come situazione. Vorrei restare invece sul tema di perché tutti sono così contenti che con i nostri soldi andiamo a salvare una seconda volta in 2 anni le banche. Allora, professor Masciandaro, lei è un uomo di mondo bancario, lo conosce molto bene, avrà capito perché il mercato festeggia in maniera così euforica e soprattutto non è che le euforie degli operatori di borsa rappresentino invece le nostre pene? Beh, vorrei ricordare che ci sono stati grandi festeggiamenti anche in presenza di notizie assolutamente infondate, ricordo i 3 trilioni di euro per il cosiddetto fondo salva stati, notizia evaporata nel giro di un weekend, che però è servita per un paio di giorni, se non ricordo male, a muovere al rialzo le borse. Quindi i movimenti di brevissimo periodo ci devono interessare relativamente. Quello che ci deve interessare è forse capire se sono cambiate le prospettive. Io mi auguro di sì, ma annunci ne abbiamo visti davvero tanti. Finché non vediamo dei fatti, io continuo ad essere molto prudente. Ecco, la lascio respirare un secondo per capire una cosa, però. Intanto... Ripeto, è la battuta dell'ascoltatore sul senatore che deve votare alla Camera, per favore, se scherziamo ogni tanto non bisogna ricevere messaggi su questo. Detto ciò, se vogliamo essere seri, non si sa perché il governo sia andato sotto alla Camera, cioè al pareggio. Dire che è perché Bossi era uscito fa venire voglia di fare la battuta che ha fatto l'ascoltatore sul Senatur che non vota la Camera. Su, andiamo avanti. E invece, per quello che riguarda il mondo bancario, cioè il mio timore è questo: noi andiamo a salvare di nuovo le banche perché in questi due anni non hanno fatto pulizia. Dexia è un caso oggettivo, no? La banca franco-belga si era tenuta in pancia non solo una marea di obbligazioni greche, il 49% degli investimenti, ma anche molti derivati, molta roba tossica, senza mai dire a bilancio: signori, devo svalutare. E mo Parigi e Bruxelles devono salvarla di nuovo, perché già fu salvata una volta. Ecco, noi diamo i soldi, ricapitalizziamo le banche, ma professor Masciandaro, non è che fra due anni ci ritroviamo a dover ridare i soldi alle banche e ricapitalizzarle se non si iniziano a fare pulizia e magari anche a separare merchant bank da investment bank? Dottor Barisoni, ci siamo già confrontati un'altra volta, ripeto, anche so che sarà inutile, che non sono contrario alla ricapitalizzazione delle banche. Sono contrario per due ragioni. In generale si ricapitalizza quando è chiaro qual è l'incertezza. Invece siamo in una situazione per cui finché non sarà chiara il tema, vale a dire il che cosa implicano i titoli del debito sovrano, quali sono quelli rischiosi e quello no, in assenza di una valutazione dell'incertezza, ricapitalizzare significa… È assurdo, sono d'accordo con lei. Primo punto. Secondo punto, non riesco a comprendere come non possa sembrare più lineare, quindi più trasparente, premesso che comunque dovranno essere a pagare i contribuenti, evitare la partita di giro. Sì. No, perché sembra sempre i contribuenti, siamo qualcun altro. Noi? Noi, quote che andranno poi a definirsi. Mi chiedo perché fare la partita di giro, cioè l'Europa che dà i soldi ai fondi ai governi nazionali, che a loro volta poi vedranno di ricapitalizzare le banche, il cui effetto non è chiaro. Non è molto più semplice invece che l'Europa si accolla il problema dei debiti sovrani e taglia dal gioco sia i governi nazionali sia le banche? Mi sembra più lineare, forse per questo non funziona. Ecco, se vuole un paradosso, le banche chiedono all'Europa e a noi cittadini di fare esattamente il contrario di quello che fanno loro quando prestano dei soldi. No, ma scendere, è così, perché se io vado in banca e chiedo dei soldi, loro iniziano a dirmi: bene, portami la tua situazione contabile, portami gli eventuali, portami tutto, portami la tua radiografia finanziaria, no? A quel punto vedo se ti posso prestare. In questo momento noi stiamo andando a dare 150 miliardi per salvare banche francesi, banche tedesche, banche forse italiane, non lo so, senza che loro ci abbiano detto, senza che abbiano fatto l'operazione trasparenza. Allora, a dire: ho 30 miliardi in obbligazioni greche, ho ancora 20 miliardi in prodotti derivati e tossici da svalutare, sono esposto col titolo con bot italiani per 15 miliardi, sono esposto con bot spagnoli per 20 miliardi. Allora io ti guardo e dico: vabbè, ti prestiamo i soldi, però tu... Ma questa operazione non gli viene chiesta. Perché non viene chiesto alle banche di fare quello che chiedono loro a noi? Perché l'operazione di trasparenza ha agli occhi dei governi nazionali almeno due problemi. Il primo, l'Italia dall'erogazione di nuovi fondi da parte dell'Europa grazie ai salvataggi. Il secondo, dovrebbero spiegare come mai ancora le regole non sono state cambiate e come mai ancora ci sono casi come quello d'Exia, in come lei sottolineava, ci sono due aspetti. C'è un aspetto aziendale, titoli tossici, ma poi c'è un aspetto sistemico, i titoli del debito greco. Ora, il problema che interessa a noi contribuenti europei è la parte sistemica, e la parte sistemica non dipende dal sistema bancario. Noi avevamo dei titoli che erano a rischio zero per colpa dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha consentito a stati di avere bilanci in disordine e falsi perché c'era una convenienza incrociata. Ricordo che Francia e Germania non avevano i conti in ordine e non sono stati puniti. Oggi questa situazione è colpa dell'Unione Europea, quindi il problema sistemico va risolto dall'Unione Europea. Sì, però io temo che sia, professore, per concludere, un nascondere la polvere sotto il tappeto, perché se tu non hai il coraggio di chiedere alle banche adesso un'operazione trasparenza, dopo che già non gliel'hai chiesta nel 2008-2009 e si è visto che siamo tornati a capo 12, ti toccherà farlo più avanti con conseguenze peggiori. Meglio sarebbe dire, signori, adesso presteremo i soldi dei cittadini, 150 miliardi alle banche per non farle collassare, perché non possono collassare. Però in cambio alle banche chiediamo questa volta di dirci tutta la verità e solo la verità. Quanta roba tossica avete, quante obbligazioni greche vi siete comprate, quando le avete comprate, così magari scopriamo che mentre i tedeschi formalmente dicevano che i greci erano praticamente dei banditi, nel frattempo le loro banche compravano debito greco, no? Magari scopriremo anche cose interessanti su questo, con un conseguente anche sputtanamento del rigore tedesco come conseguenza. Vorrei chiedere però, mentre chiaramente ringrazio il professor Vittorio Masciandaro, a Vittorio Morandini, che ha 26 anni. Buonasera, mi sente? Buonasera, salve a tutti. È un imprenditore di Treviso, Santa Lucia di Piave Treviso. Lei quando ha chiesto un prestito alla banca le hanno fatto un po' di radiografia, sì o no? Beh, radiografia sicuramente. Il problema è nato... No, no, dopo appunto... mi racconta la storia, vorrei sapere se si sono fidati sulla parola o hanno controllato invece tutto. No, no, assolutamente. In ogni rapporto bancario che la mia azienda ha avuto, ha sempre voluto tutto. Quasi l'analisi del sangue praticamente. Ecco, allora, è giusto, perché non si fa credito senza una prudente valutazione, e allo stesso modo potremmo dire, Masciandaro, alle banche non vi diamo credito senza una prudente valutazione del vostro capitale. Grazie all'economista e editorialista sulle 24 ore Donato Masciandaro. Traffico, e poi sentiamo cosa succede nel nord-est, non in Campania, se Steve Jobs o Stefano Lavori fosse nato in provincia di Treviso a Santa Lucia di Piave. Ultima parte di Focus Economia, sempre con Sebastiano Barisoni. Allora, visto che ieri abbiamo raccontato i paralleli tra Steve Jobs e il fatto che fosse nato in California, e Stefano Lavori se fosse nato a Napoli, alcuni ci hanno detto ma insomma ci sono molti imprenditori che ce l'hanno fatta. Sì, ce l'hanno fatta nonostante il nostro sistema. Allora continuiamo con questo racconto, dai. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Allora, Vittorio Morandin, quanti anni ha lei? 26 appena compiuti. Auguri. Che cosa fa nella vita? Imprenditore, sfortunatamente in Italia. Adesso, insomma, l'imprenditore. Restiamo sulla radiografia bancaria. C'è chi chiede anche la colonoscopia dice che le banche non fanno solo la radiografia, mi sono perso l'SMS, ma fanno anche la colonoscopia. Andiamo avanti. Lei che cosa produce? Cosa fa? Noi produciamo contenitori e piattaforme ecologiche. Che cosa, mi scusi? Piattaforme ecologiche. Abbiamo nuovi sistemi per la tutela dell'ambiente. Ci stiamo specializzando principalmente sull'ecologia. Produciamo container e moduli container per il contenimento di rifiuti speciali, di sostanze inquinanti e per il recupero appunto di oli e liquidi che potrebbero essere nocivi per l'ambiente. Cioè, fate i contenitori che devono recuperare questi liquidi, se posso tradurre in maniera un po'... Esattamente, poi facciamo anche i contenitori standard, che sono quelli che vediamo normalmente tutti i giorni, lavoriamo per tutti i settori dell'industria. Ok, quanti dipendenti siete e che fatturato avete? Attualmente siamo circa 24 dipendenti nello stabilimento di Santa Lucia. E in forte crescita, vale a dire siamo partiti da 2 anni circa con un numero irrisorio di dipendenti, e mensilmente abbiamo sempre aumentato sia i nostri fatturati. Cioè da 5 a 24 dipendenti, ok. E quanto fate di fatturato? Beh, siamo ben oltre il milione di euro. Adesso quest'anno chiuderemo con una crescita rispetto all'anno di partenza di circa un 55-60%. Tra l'altro voi avete avuto crescita di quanto negli ultimi anni come fatturato? Beh, di mese in mese abbiamo sempre avuto un aumento minimo del 40% graduale, fino ad arrivare a un raggiungimento totale del 60-65% anche nell'ultimo mese. Io sto facendo il lavoro che dovrebbe fare qualunque bancario che si trova un imprenditore che viene a chiedere i soldi, no? Radiografia, un attimo, radiografia o colonoscopia, questo sto chiedendo. È vero che state cercando di assumere altre persone? Cioè avete bisogno di assumere? Noi attualmente stiamo assumendo altro personale. Bene. Anche oggi abbiamo assunto un'altra persona, quindi di settimana in settimana aumentano i volumi, aumenta il lavoro, abbiamo prospettive future di lavoro, quindi... Vabbè. Allora, un milione e mezzo di fatturato, lei ha 26 anni, un milione e mezzo di fatturato, siete cresciuti del 50%, gli ordinativi sono anche un più 50 come ci diceva negli ultimi mesi, gli dipendenti aumentano, cercate altre persone da assumere. La vicenda, lei va in banca, intanto mi dice quale banca per favore? Questo preferirei un attimo riservarlo, più che altro per rispetto comunque di chi ci mette la faccia e chi non si nasconde dietro un computer o un telefono, perché alla fine sono sempre i direttori a metterci la faccia, anche se loro non ne possono niente, è la direzione centrale che poi... Vabbè, è una banca del nord-est, una banca nazionale, com'è? Sì, sono banche del nord-est e anche banche nazionali. E il problema comunque... Veneto Banca e Unicredit, Intesa, mi dica quale? No, è più che altro comunque per correttezza nei confronti dei rapporti che ho. Va bene, non vuole mettersi in difficoltà. Non la posso obbligare. Lei è andato in banca a fare che cosa? No, io la mia azienda fortunatamente si è sempre autofinanziata, quindi tutti gli acquisti dei macchinari sono sempre stati acquisti compiuti con forze proprie e in cerca di leasing o qualsiasi altro strumento finanziario. Morandin, che cosa ha chiesto in banca? È nato tutto innanzitutto chiedendo a dei leasing un leasing appunto irrisorio di 40.000 euro, non tanto comunque per la mancanza di liquidità, perché fortunatamente liquidità ce n'è e i bilanci sono stabili, comunque la situazione della mia azienda, se ben giovane, è stabile. È stato chiesto a tre diverse società di leasing una proposta di acquisto di questi macchinari, che oltretutto sono quattro macchinari per un valore totale di 40.000 euro. Okay. Il risultato è stato: lei è troppo giovane e mi ha buttato giù il telefono. E allora in quel momento mi sono sentito trattato come un criminale, troppo giovane, comunque un giovane che è riuscito a fare, non lo dico per paura, comunque dei passi abbastanza grandi guardando la situazione odierna che abbiamo nel nostro paese, contento di dare del lavoro a delle persone e di riuscire a mantenere delle famiglie dando del lavoro a delle persone, e con questo ne vado a testa alta. Essere trattato in questa maniera proprio non mi va. Ma cosa le hanno chiesto? Ma le avranno chiesto qualche garanzia? Le avranno chiesto, no? No, perché comunque diciamo la mia forza comunque sono un po' ostinato su quello, voglio riuscire a far da solo. No, dico, ma quando lei ha chiesto 40.000 euro per il leasing? No, loro inizialmente me l'hanno dato comunque il leasing. Quando arrivava il momento di firmare, arrivavano e tiravano sempre fuori qualche scusa, vale a dire ti fanno un preventivo leasing, deve essere rispettato. Quando arrivano a firmare il contratto, al posto del 10% ti mettono il 20% d'anticipo, al posto del 5,90% di tasso ti mettono il 7,95% l'8%. Allora in quel momento dici: no, tale preventivo è scritto una cosa, torni indietro e ritorni con il preventivo e con il contratto secondo le clausole che avevamo pattuito nel preventivo. Tornano la seconda volta e accusano la casa costruttrice dei macchinari di aver sopravvalutato il prezzo dei macchinari. Io chiamo la casa produttrice, gli dico: ma mi state prendendo in giro? Cioè qui il leasing mi chiama e mi sta dicendo che voi avete sopravvalutato il valore dei macchinari. La casa produttrice chiama immediatamente il leasing, viene fuori un discorso di un'ora accusando il leasing, fatemi vedere questa perizia e fatemi vedere chi è stato a dire che i miei macchinari sono stati sopravvalutati. Questo è fare impresa in Italia, però una cosa gliela devo dire anche a lei, Morandina. Cioè, se lei non vuole fare i nomi della società di leasing e della banca, e non li vuole fare, vero? No, preferirei di no. Allora però, attenzione, perché poi non si può accusare al sud di essere omertosi, commercianti, imprenditori che non vogliono fare i nomi di chi paga il pizzo. Dovete anche prendere in mano voi la vostra vita, ma non per echeggiare Steve Jobs, ci mancherebbe, e iniziare anche a fare i nomi. Lei è stato molto gentile, a disposizione. Certo, ma io le dirò anche che comunque oggi uscendo con l'articolo dal Tribunale di Treviso, l'abbiamo beccato sulla Tribunale di Treviso, e ringrazio anche Stefano che sulla nostra pagina di Facebook ce l'ha segnalato, però i nomi Vado male comunque dal nome, dico sinceramente. Io ho avuto comunque dei risultati perché sono stato contattato nella giornata di oggi da grosse società, sono stato contattato da comunque banche e bandi che sono stati messi tra virgolette in palio in Veneto, molto conosciuti, che poi non ha rispettato le proprie... Io i nomi li avrei fatti. Comunque, le auguro in bocca al lupo. Spero che appunto poi un finanziamento in leasing per 40.000 euro lo trovi. Grazie Vittorio Morandin. Poi vediamo se domani citiamo altri casi di Stefano Lavori, di Steve Jobs de casa nostra. Per ora è tutto, un augurio di buona serata. Ci risentiamo dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.